Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Sarete con me oggi e domani e poi lunedì ritorna Sebastiano Barisoni. Di cosa parleremo oggi? Beh, insomma, uno degli argomenti è obbligato e anzi ci vogliamo entrare dentro per capire bene che cosa esattamente è successo, e si tratta naturalmente della conferenza stampa del Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, della riunione del direttivo che evidentemente i mercati si aspettavano che già desse il via libera a un acquisto di titoli di Stato. Ora Draghi è tornato a parlarne, tra poco sentiremo la sua voce, ci collegheremo con Francoforte per cercare anche di capire anche da voce di corridoio quale possa essere la strategia del Presidente della Banca Centrale Europea. Ne ha parlato, ha detto che l'acquisto di titoli di Stato rientra nel mandato della Banca Centrale Europea, ha dato un chiaro segnale, se vogliamo, anche ai tedeschi, perché ha detto per dare il via libera a questo piano non abbiamo bisogno dell'unanimità, ha rivisto al ribasso le stime di inflazione, cosa che fa pensare che l'ipotesi appunto di acquisto di titoli di Stato si possa avvicinare, e però di fatto il varo non è avvenuto. Come hanno reagito i mercati? Male, come già vi raccontava il nostro giornale radio. Meno 2,36% il FTSE MIB, meno 2,16% il FTSE All Share, Milano tra le peggiori, Parigi cede 1,5%, Francoforte l'1,11%, Londra, ma qua siamo fuori dall'area euro, perde 0,5%, con particolarmente negativi bancari, meno 4% il Monte dei Paschi, meno 3,7% l'Unicredit, Mediobanca meno 3,28%, Popolare Emilia Romagna meno 3,2%, Banco Popolare meno 3,18%, UbiBanca meno 3,14%. Di questo parleremo in apertura di trasmissione, cercando di capire anche quali possono essere le strategie di Draghi. Ovviamente poi approfondiremo i mercati, perché al di là delle vicende generali ci sono anche delle singole storie. Poi ci occuperemo di professionisti, come sapete ogni tanto lo facciamo, dedichiamo dello spazio a questo mondo al quale siamo anche affezionati, e incontreremo, sentiremo un'intervista che ha realizzato la nostra Deborah Rosciani con il presidente della Cassa Forense, una cassa che avrà 40.000 nuovi iscritti e che come molti altri enti previdenziali ha un discreto problema che gli deriva dalla legge di stabilità e sostanzialmente dall'aumento delle tasse. Ci occuperemo della legge appena approvata, che appena ricevuto il via libera definitivo del Senato, ossia quella sul rientro dei capitali, per capire esattamente come funziona, e poi un tema classico di questo paese, di questa trasmissione, ma non solo, ossia gli investimenti bloccati dalla burocrazia. Ci occuperemo di un caso specifico, ci sono dei dati dei giorni scorsi piuttosto interessanti che parlano di 26,4 miliardi di euro di capitali a rischio per la burocrazia, per blocchi burocratici di vario genere, e 6,8 miliardi bloccati. Ci occuperemo di un caso specifico particolarmente importante in queste settimane nelle quali si discute del progetto South Stream, del gasdotto South Stream, scusate, ed è l'altro gasdotto, TAP, la Trans Adriatic Pipeline, quella che dovrebbe passare dalla Grecia, dall'Albania e arrivare in Puglia, con la regione Puglia che ieri nella conferenza di servizi ha detto no, noi il TAP sostanzialmente non lo vogliamo, quantomeno non lo vogliamo in quel punto. Si sarebbe potuto probabilmente indicare un altro punto dove far approdare questo gasdotto, tutto questo non è ancora avvenuto e quindi potrebbe essere a rischio la partenza dei lavori nel 2015. Tutto questo in una situazione di problemi, vogliamo definirla delicatamente in questo modo, per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico, che ben conosciamo e ben abbiamo raccontato, speriamo bene, insomma, comunque abbiamo raccontato anche da questi microfoni. 349-238-6666 per i vostri sms. Iniziamo dalle notizie in breve di oggi. c'è già qualcuno che si lamenta via SMS che Draghi dice sempre la stessa cosa. Perché a questo punto non lascia la giacca là e sbatte la porta e se ne esce. No, ma insomma, credo che a breve arriveranno, insomma, queste misure. Comunque ne parleremo tra poco. Oro stabile a 1208 dollari l'oncia, si parlava di problemi sul fronte dell'energia, uno di questi naturalmente è il petrolio che continua a scendere, il Brent, quello quotato a Londra con consegna a gennaio, scende l'1%, quota sotto i 70 dollari al barile a 69,22, il WTI, quello quotato a New York, cede oggi l'1,37% a 66,4 dollari al barile. Da dire che secondo le indiscrezioni, le voci di queste ore, l'Arabia Saudita sarebbe interessata ad abbassare il prezzo fino a 60 dollari al barile per spingere fuori mercato le più costose produzioni di shale oil americane. Questa è una delle interpretazioni. L'altra interpretazione è che, scusate la brutalità, ai sauditi non gliene freghi proprio niente. La cosa importante è spingere fuori mercato altri produttori. Che sia la Russia, che siano gli Stati Uniti, non gli interessa. E loro, nonostante abbiano un break-even, un punto di pareggio che non è a 60 dollari al barile, ma è con un prezzo del greggio più alto, per la liquidità che hanno si possono permettere di fare questo gioco. Altri paesi non se lo possono permettere. Vedi la Russia, che sta subendo delle dure conseguenze da tutto questo, si avvia verso una recessione già nel 2015. È tanto che la banca centrale oggi si è detta pronta ad intervenire sul mercato valutario, se necessario, senza limiti e senza annunci preliminari. Da inizio anno il rublo ha perso il 40% nei confronti dell'euro, il 60% nei confronti del dollaro. Su questo pesano naturalmente le sanzioni, ma pesa naturalmente anche il prezzo del greggio. A proposito di Russia e delle questioni ucraine che sono collegate, c'è la vicenda South Stream, appunto, come si diceva, del gasdotto. Dice Juncker, il presidente della Commissione europea, che può essere costruito. Le condizioni ci sono da tempo, la palla è nel campo della Russia, gli ostacoli che ci sono non sono insormontabili. E ancora la Bulgaria, che è uno dei paesi di passaggio, dice: non abbiamo ricevuto alcun avviso ufficiale dalla Russia, possiamo andare avanti con i lavori preparatori. La Commissione ha detto che non ci lascia soli. Le decisioni delle banche centrali, da dire che a fianco di questo messaggio arrivato dalla banca centrale russa ci sono anche le dichiarazioni di oggi di Putin, che ha fatto il suo discorso annuale alla nazione, un lungo discorso come sempre nel quale ha toccato anche i temi economici e ha chiesto al governo e alla banca centrale azioni dure e coordinate contro quelle che ha definito le speculazioni sul rublo. E questo è un elemento interessante, per quanto vale naturalmente, ha anche promesso un'amnistia piena per il rientro dei capitali offshore. Come sapete, un altro dei problemi della Russia è che nei mesi scorsi c'è stato un forte deflusso di capitali verso l'estero. Le mosse delle banche centrali, al di là di quella russa, la Banca d'Inghilterra, che ha lasciato i tassi invariati allo 0,5%, confermato il suo piano di acquisto di titoli, 375 miliardi di sterline. E per quanto riguarda l'Europa, invece, adesso parleremo di Draghi. Comunque possiamo riassumerlo così. Dice: le misure adottate dalla BCE avranno un impatto notevole sul bilancio, che la BCE intende riportare ai livelli di inizio 2012, aumentandolo quindi di circa 1.000 miliardi. L'acquisto di titoli di Stato rientra chiaramente nel mandato della BCE e risponde ad un giornalista dicendo: lei pensa che discuteremmo cose che sono illegali? E quindi c'è la possibilità, da un punto di vista legale, di trattato. Ancora, quello che appare come un messaggio ai tedeschi: non abbiamo bisogno dell'unanimità per decidere un eventuale quantitative easing o acquisto massiccio di titoli, dice. e segnala che l'inflazione può scendere ancora. Questo è collegato tanto alle nuove previsioni per l'inflazione, la vede la BCE a un più 0,5%, ma anche a... al fatto che questo dato, questo più 0,5% di inflazione che prevede la BCE, non incorpora il calo del prezzo del greggio, che è un fattore deflattivo, evidentemente. Anche se non sempre considerato nei calcoli principali sull'inflazione, però è un fattore deflattivo oggettivo. Una discesa dell'inflazione troppo prolungata che si trasmettesse alle aspettative sui prezzi non sarà tollerata dalla BCE, aggiunge Draghi, perché sarebbe l'equivalente di un aumento non voluto dei tassi di interesse reali. E ancora, aggiunge, abbiamo grande fiducia nel successo del piano Juncker per gli investimenti e si tratta dell'unica iniziativa che ci sia. Ci chiedete l'euro a quanto sta? Ci vuole un dollaro 24,44 per comprare un euro in questo momento, quindi in netto rafforzamento l'euro dopo questo discorso di Draghi. Considerate che ieri eravamo arrivati a ridosso di quota 1,2331, insomma più o meno questi livelli. L'Ilva, per l'Ilva i tempi saranno brevissimi, dalle prossime ore ai prossimi giorni. Come sapete c'è in ballo un'ipotesi di nazionalizzazione, quantomeno temporanea, o quantomeno di intervento dello Stato. Un po' stile, si è usato questo esempio, no? Un po' stile quello che ha fatto Obama con Chrysler. Ora siamo nella fase, dice il ministro Federica Guidi, in cui procederemo speditamente a prendere decisioni. Il governo sta creando una piattaforma di opzioni sufficientemente larga da valutarle tutte per scegliere quella migliore. E sempre in tema di industria italiana, fa tappa oggi a Napoli il roadshow I servizi innovativi e tecnologici e il nuovo manifatturiero 4.0 organizzato da Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. Un'iniziativa che ha le sue premesse in un rapporto, il rapporto finale 2014 della High Level Group on Business Services della Commissione Europea, e vuole dare voce a un nuovo percorso di collaborazione e integrazione tra due aree industriali, il manifatturiero e i servizi, con l'idea che si avvino a diventare un'unica anima nel sistema produttivo, anche in quello italiano. Domani il roadshow sarà a Brescia per terminare a Roma a fine gennaio. Sentiamo gli obiettivi dell'iniziativa e in cosa consiste da Gianni Potti, presidente del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. Nella cosiddetta sharing economy, nell'economia della condivisione in cui stiamo vivendo, entreremo sempre di più. Il 40% del valore aggiunto della manifattura viene già dai servizi e in futuro lo sarà ancora di più, quindi in futuro avremo sempre meno questa distinzione semantica tra manifattura e servizi, perché la cosiddetta fabbrica 4.0, quella che ormai si sta disegnando, sarà fatta indifferentemente di servizi a grande valore aggiunto e manifattura, e questo diventa un grande fattore di competitività per le nostre imprese. Pensiamo a uno degli aspetti della fabbrica 4.0, il tema della stampante 3D. Allora, quando si parla di stampante 3D non è una novità assoluta, perché sono 15 anni che c'è nelle nostre aziende la prototipazione col 3D, ma la novità vera è che si sta passando alla produzione di beni finali, e questo cambia completamente, come è noto, il tema della logistica, cambia il tema dei magazzini, cambia il tema della produzione, e questo influisce nelle nostre aziende. Ecco, questi sono i temi che stiamo trattando e stiamo cercando di portare anche nel nostro mondo confindustriale, ma ovviamente gli incontri sono aperti anche al di fuori di Confindustria, stiamo portando questo messaggio perché siamo convinti che prima di tutto dobbiamo cambiare noi la mentalità come imprenditori e integrarci di più nella direzione delle reti di impresa. Quindi il famoso tema dell'aggregazione per crescere e competere sui mercati per noi diventa assolutamente strategico nei prossimi anni. La logica nostra, comunque, ribadisco, è quella di far capire come, cito studi che avete già raccontato altre volte anche a Radio 24, senza offesa per i tassisti, un posto di lavoro di un tassista ne genera ancora uno, secondo questi studi, un posto nel mondo del servizi innovativi, come li chiamiamo noi, che vuol dire ICT, vuol dire digitale, vuol dire tutto quello che sta intorno a questo mondo, in genere almeno tre. Quindi siamo anche convinti che questa sia una grande occasione di nuova occupazione nel nostro paese. Qualcuno già ci scrive a proposito del TAP, il gasdotto, il Trans-Adriatic Pipeline, la Trans-Adriatic Pipeline, ci dice il problema del gasdotto è di interesse nazionale, per cui gli isterismi delle singole regioni hanno scocciato, che dobbiamo avere a che fare con persone che guardano i loro orticelli e non al campo grande. E poi chiede scusa per lo sfogo Enrico. No, non si preoccupi, il tema sul quale vogliamo ragionare, ci arriveremo nella seconda parte della trasmissione, è esattamente questo. Posto che naturalmente il punto di approdo al momento del TAP è un punto che può suscitare delle perplessità, perché sono delle spiagge meravigliose per quanto il TAP passi sotto, e però a quanto pare la regione avrebbe avuto il tempo di indicare un altro luogo e per il momento non l'ha fatto. È il momento dei 100 secondi dell'economia in collaborazione con Radio Dimensione Suono, i 100 secondi di economia di Radio 24, il Sole 24 Ore. Oggi Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, ci parla degli squilibri mondiali nella distribuzione del cibo. Scopri le automatiche Saeco, con macine in ceramica per offrirti in ogni momento il tuo espresso autentico. Saeco regala Pellini. Regolamento su philips.it/promozioni. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Ma lo sapevate che nel mondo per ogni persona obesa ci sono due bambini denutriti? Che muoiono ogni anno 29 milioni di persone per patologie legate all'eccesso di cibo e che nel contempo 39 milioni muoiono per mancanza di cibo. Sono alcuni dei dati emersi nella due giorni di lavori a Milano del forum su alimentazione e nutrizione organizzato dalla Fondazione Barilla, che da tempo studia iniziative globali per un uso razionale e sano delle risorse alimentari e per una nuova cultura della nutrizione. Del resto è agghiacciante pensare che un terzo della produzione globale di cibo finisce nella spazzatura e in quantità equivale a 4 volte il necessario per sfamare tutti gli 868 milioni di affamati censiti finora dalla FAO. Non sono dati pauperistici o pietisti, sono dati che fotografano un fenomeno macroeconomico rilevante e distorsivo che, se non venisse interrotto, porterebbe a un uso ancora più irrazionale delle risorse. Nel lungo periodo, tra l'altro, va risolto anche un conflitto strategico molto importante. Una parte rilevante dei campi coltivati oggi è utilizzata per fornire il biocarburante e non per coltivare materie prime destinate all'alimentazione. Quindi, fino a quando i campi coltivati dovranno crescere ed alimentare le nostre automobili e non le persone? Il rischio è che nel 2020 la quota destinata all'alimentazione umana possa diminuire a fronte di un incremento vistoso della popolazione mondiale, mentre aumenterà la parte destinata ai biocarburanti. Per questo è stato firmato il cosiddetto protocollo di Milano, con cui imprese e istituzioni, a cominciare dalla stessa Presidenza del Consiglio, intendono promuovere i temi della sostenibilità e dell'uso razionale delle risorse alimentari. Questo in vista dell'Expo 2015, il cui tema, non dimentichiamolo, è nutrire il pianeta. Per Milano e per l'Italia può essere una grande opportunità per far cambiare il corso delle cose. Seguici anche in video su rds.it e radio24.it. Eccoci per il primo tema di giornata. 349-238-6666 per i vostri sms. Ha anche ragione l'ascoltatore Stefano che ci scrive: mi spaventa una ricetta esclusivamente monetaria su basi messianiche. Guardi che in effetti Draghi, ma l'abbiamo messo perché lo dice ogni volta, ha detto anche non mi posso sostituire ai governi, ma lo dice ogni volta, è inutile che stiamo qua a ripeterlo, insomma. Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Buonasera, ciao Alessandro. Sì, buonasera a voi. Allora, ha un po' deluso i mercati Draghi oggi. Ma è un po' schizofrenica questo atteggiamento dei mercati. Ieri un sondaggio della Reuters diceva che, se non sbaglio, su 37 economisti interpellati dalla Reuters, 36 non si aspettavano niente da Draghi oggi. Poi oggi Draghi non fa niente e i mercati sono delusi. Quindi diciamo, passiamo sopra la reazione immediata dei mercati, ma guardiamo effettivamente quello che Draghi ha detto. Draghi ha detto, in sostanza, ha fatto un altro piccolo passo verso questo quantitative easing, questo QE, cioè questo acquisto di titoli pubblici per cercare di far ripartire l'inflazione e la crescita. Al tempo stesso però ha ammesso, mai come prima, che ci sono delle divisioni anche molto profonde, non solo nel Consiglio e quindi non solo la Bundesbank e i suoi seguaci, ma anche dentro il comitato esecutivo, quindi il Sancta Santorum, i sei che dovrebbero essere un po' il motore delle decisioni. Allora, sono almeno due che probabilmente non sono d'accordo con lui. Allora Alessandro, intanto ti fermo perché ci sentiamo un passaggio di Draghi che da questo punto di vista mi sembra significativo. Via. I think it's pointless to speculate. Penso che non abbia senso speculare su quale tipo di maggioranza sarà in atto nel momento in cui decideremo, se decideremo, tali misure. Ma se si guarda a quanto successo nel passato, abbiamo preso decisioni di politica monetaria in un contesto in cui non c'era unanimità. Dobbiamo ricordarci di questo fatto. Dobbiamo rispondere e rispettare il nostro mandato. Non siamo politici. Il nostro mandato è molto chiaro su questo. Un messaggio a questi almeno due dei quali tu parli, Alessandro, e tra l'altro chi sono? Chi è che si oppone all'acquisto di titoli di Stato? Beh, nel comitato esecutivo, diciamo, i due dissenzienti sono Sabine Lautenschläger, che fino a pochi mesi fa era vicepresidente della Bundesbank e adesso è nel comitato esecutivo della BCE, e Yves Mersch, che è l'ex governatore della Banca Centrale del Lussemburgo, quindi diciamo un satellite della Germania. Nessuno dei due è molto convinto, con diverse sfumature. La Lautenschläger ha detto questa settimana: per adesso non penso che sia il caso di fare il QE, che non vuol dire, siccome la decisione è stata presa adesso, che non possa esserlo fra qualche mese. Qui sta l'abilità di Draghi di diciamo creare un consenso per questa decisione. Quando dice non siamo dei politici fa un po' ridere, nel senso che una delle cose che spiccano di Draghi era proprio la sua abilità politica, diciamo in senso lato, cioè la sua abilità di convincere l'interlocutore che la sua è l'opzione migliore. Quindi dovrà convincere almeno, credo, almeno questi due, e poi possibilmente quell'altra parte del Consiglio che invece è contraria alle sue scelte. Evidentemente. Io vorrei capire da te, Alessandro, a questo punto quali potrebbero essere effettivamente i tempi di una decisione di questo genere, perché naturalmente tutto dipende, no, dall'andamento dell'inflazione, perché quella cosa è nel mandato della BCE. Posto che siamo ben lontani dal famoso obiettivo del 2%, nel senso che questa volta siamo ampiamente sotto, e posto che la pressione deflazionistica potrebbe essere accelerata dall'andamento del prezzo del petrolio, vorrei capire da te che aria tira nei corridoi di Francoforte da questo lato, che cosa, quando si ritiene che Draghi possa iniziare ad agire, che la BCE possa iniziare ad agire. Allora, Draghi ha detto una cosa oggi, l'ha ripetuta anzi più volte, ha detto early in 2015, cioè nei primi mesi del 2015. Nei primi mesi del 2015 sostanzialmente le possibilità sono due, perché bisogna ricordare che a partire dal 2015 il Consiglio della BCE, per prendere decisioni di politica monetaria, si riunirà solo una volta ogni sei settimane, non più una volta al mese come fa adesso. Quindi le riunioni sono due, una il 22 di gennaio e l'altra ai primi di marzo, quindi sostanzialmente queste sono le due opzioni, e come dicevi giustamente tu, molto dipenderà anche dal prezzo del petrolio. Draghi l'ha sottolineato più volte, credo che molti economisti di mercato vedano già un'inflazione dell'Eurozona che va a zero, qualcuno dice addirittura sotto zero nei prossimi mesi, per effetto proprio del crollo del prezzo del petrolio, che non è tutto il compreso nelle proiezioni che la BCE ha diffuso oggi, perché quelle si basavano su dati fino alla metà di novembre, dopodiché c'è stato un altro gradino al ribasso. Certo, e tra l'altro, con l'Arabia Saudita che pare, secondo voci, che lo voglia portare addirittura intorno ai $60 al barile. Ultima domanda, Alessandro, per chiarezza nei confronti dei nostri ascoltatori. Vogliamo spiegare in maniera semplice che vantaggi comporta il quantitative easing, che ce lo chiedono via SMS? Diciamo che Draghi oggi ha parlato della possibilità di acquistare molti tipi di attività finanziarie, no? Però in pratica un vero quantitative easing vorrebbe dire acquistare titoli di debito pubblico, titoli di Stato di vari paesi, anche perché è l'unico mercato sufficientemente grande per avere una massa critica, un volume che consenta alla BCE di espandere la moneta. Di fatto cosa succede? La BCE acquista, poi si potrà vedere in quali modalità, questi titoli del debito pubblico, siano essi tedeschi, italiani, probabilmente un paniere composto dei titoli dei vari paesi che compongono la zona dell'euro. Questo cosa vuol dire? Che chi vende alla BCE questi titoli, e sarebbero non solo le banche ma anche altri detentori, altri possessori del debito pubblico, a questo punto si trova in tasca della moneta. Poi è chiaro che bisogna vedere cosa farà di questi soldi, però si può pensare che chi ha venduto questi titoli alla BCE voglia fare uso di questo contante e quindi investirlo o consumarlo in qualche modo. Questo dovrebbe dare un impulso all'attività economica e anche far ripartire un po' di inflazione, che giustamente ricordavi sta allo 0,3% e se andrà ancora più in basso rischia di andare zero, sotto zero, e l'obiettivo della BCE è di stare sotto ma vicini al 2%, questo è il mandato della BCE e quindi siamo ben lontani. Grazie, grazie ad Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Ci prendiamo una pausa, poi magari sentiamo un altro paio di voci di Draghi. Grazie Alessandro, buona serata. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms. Ha in parte ragione Ennio da Bergamo, che parla di una speculazione di breve termine da parte dei mercati. Intanto vi segnalo la chiusura di Milano che è sui minimi, meno 2,77%, il FTSE MIB meno 2,5%, il FTSE All Share, perché come ci raccontava Alessandro Merli da Francoforte, 37 economisti interpellati da Reuters, 36 hanno detto che Draghi non avrebbe fatto nulla, quindi di fatto si sapeva. Sembra invece che i mercati siano particolarmente sorpresi, è semplicemente un'occasione per vendere, parliamoci chiaro. C'è chi scherza e dice: nella riunione di marzo per rotazione BCE Weidmann della Bundesbank, no, non c'è, non ci deve essere per una questione di rotazione, e quindi là varano quello che gli pare, non esageriamo, non credo che funzioni esattamente così. Ancora Draghi sul tema del mandato della BCE. Lo potete fare o no il famoso quantitative easing? Sentiamo. Do you think we would discuss things that we know are illegal? Lei pensa che discuteremo cose che sono illegali? Pensa che sarebbe l'uso migliore che faremo del nostro tempo? Credo che questa sia già la risposta. Chiaramente siamo convinti che un programma di quantitative easing che potrebbe prevedere titoli di Stato rientri chiaramente nel mandato. O meglio, è uno strumento che possiamo utilizzare nel rispetto del nostro mandato. Or better, is an eligible instrument that we could use in the pursuit of our mandate. E poi l'andamento dell'economia. Innanzitutto il taglio, come si diceva, delle stime sull'inflazione dell'Eurozona. E occhio, visto che parliamo di inflazione, lo dico all'ascoltatore che ci scrive: nessuno dice che il calo del prezzo del petrolio è un male. Non abbiamo detto assolutamente questo. L'abbiamo trattato come elemento di analisi ulteriore che, innestandosi su un'inflazione già bassa, potrebbe spingere la Banca Centrale Europea ad agire. Era un elemento di analisi. Inflazione ad un più 0,5% nel 2014 contro una previsione di un più 0,6 fatta tre mesi fa, e poi ha tagliato anche le stime di crescita. Un aumento del PIL dello 0,8% nel 2014 rispetto allo 0,9% di tre mesi fa, dell'1% nel 2015, e qua il taglio è più drastico, da un più 1,6%, e dell'1,5% nel 2016, da un più 1,9%. Draghi. The latest data and survey evidence up to November. Gli ultimi dati e indagini fino a novembre confermano lo scenario di una crescita più debole nel prossimo futuro. Allo stesso tempo è confermata l'attesa di una modesta ripresa. Inoltre, i progressi sul fronte del consolidamento dei conti pubblici e delle riforme strutturali dovrebbero contribuire positivamente alla crescita. L'export, poi, dovrebbe beneficiare della ripresa economica globale. Tuttavia, la ripresa resta zavorrata dall'alta disoccupazione. I rischi che circondano lo scenario economico della zona euro sono al ribasso. Il debole passo dell'economia, accompagnato da rischi geopolitici, ha il potenziale di indebolire la fiducia e specialmente gli investimenti privati. Inoltre, i progressi insufficienti sul fronte delle riforme strutturali portate avanti dai paesi rappresentano un ulteriore rischio al ribasso allo scenario economico. Così dunque Draghi, tra poco torneremo su questa famosa reazione dei mercati e però tratteremo anche di singoli titoli non direttamente collegati a quello che ha detto il Presidente della Banca Centrale Europea. Intanto traffico. Focus Economia. Adesso ci occupiamo, come sapete ogni tanto lo facciamo, ci occupiamo del mondo dei professionisti, nella fattispecie degli avvocati. E parliamo anche della previdenza degli avvocati, perché vive come quella di chiunque abbia un fondo anche di categoria. Il problema è che nella legge di stabilità è previsto quello che è sostanzialmente un aumento dei contributi, nel senso che è un aumento dal 20 al 26% della tassazione sui redditi finanziari delle casse. Non solo di questo, Deborah Rasciani ha parlato col presidente della Cassa Forense, Nunzio Luciano, e gli ha chiesto innanzitutto qual è la fotografia della cassa. Sentiamo. Una cassa con circa 40.000 nuovi iscritti. Abbiamo deciso di dare seguito subito alla legge, che ci imponeva di iscrivere tutti i colleghi che prima erano solo iscritti agli albi a Cassa Forense. L'abbiamo fatta in tempi rapidissimi, varando un nuovo regolamento, che sostanzialmente consente a chi guadagnava poco di entrare subito in un sistema che ha una forte impronta solidaristica. Quindi i 40.000 entrano nel nostro sistema e a loro diamo la cittadinanza previdenziale. Perché si è reso necessario questo massiccio ingresso nella vostra appunto organizzazione di questi 49.000 iscritti? Innanzitutto ce l'ha imposto il legislatore, ma io guardo questo provvedimento con estremo favore, perché finalmente non esistono più avvocati di serie A e di serie B, tutti sono iscritti a un unico ente previdenziale e soprattutto vengono ad essere iscritti quelli più deboli, quelli che hanno bisogno a volte di maggiore assistenza e di maggiore aiuto. Con questa operazione noi vogliamo dare a questi 40.000 che si apprestano a entrare nel sistema, a gennaio forse saranno 50.000 perché ci sarà la seconda tranche di ingressi in Cassa Forense, gli vogliamo dare l'assistenza gratuita, ma gli vogliamo dare tutta una serie di misure che gli consentono di poter operare con una certa tranquillità. Questa è una delle situazioni, delle questioni che state affrontando in questo momento, ce n'è un'altra che per voi assume invece le sembianze di un vero e proprio problema, che è quella della rimodulazione della tassazione sulle rendite finanziarie, e sostanzialmente per voi implicherà appunto un aumento del 26%, come funzionerà un po' per tutte le altre, per tutti gli strumenti, per tutti i fondi pensione e quant'altro. Questo è un problema importante ed è una vera forzatura. Oggi le casse, che assolvono anche un importante ruolo sociale, vengono, la tassazione sui loro rendimenti viene aumentata dal 20 al 26%. Lo Stato, anziché tenere questi enti che fanno un risparmio previdenziale e che dovranno domani cercare di erogare anche pensioni adeguate, le penalizza oltre misura. Adesso il progetto, so che la legge di stabilità è in commissione Senato, io spero tanto che il governo possa rivedere la sua posizione. Poi peraltro proprio lei l'ha detto al Sole 24 Ore qualche tempo fa, l'aumento della tassazione diventa un ostacolo per il welfare, e poi ha anche indicato che per restare entro i parametri di sostenibilità a 50 anni, sostanzialmente, se la rimodulazione verrà portata avanti appunto per voi, potrebbe comportare anche un aumento della contribuzione chiesta agli iscritti di almeno un punto percentuale. Cosa significa in soldoni per un iscritto alla Cassa Forense? Significa molto, perché già le pensioni future saranno inevitabilmente più basse, perché la contrazione dei redditi e la crisi economica porta i colleghi a guadagnare di meno e quindi a mettere nel loro salvadanaio meno risorse. Siete andati a congresso 2 mesi fa a Venezia, proprio in quella sede avete denunciato il pesante calo dei redditi che la categoria ha registrato negli ultimi anni di crisi. Quanto vi è costata? Allora, dal 2008 al 2013 la contrazione dei redditi è stata del 12%. Purtroppo le previsioni vanno sotto un'ulteriore contrazione dei redditi per quanto riguarda perlomeno sicuramente il 2014, ma non vedo anche possibilità di aumenti di miglioramenti nel 2015. È un dato che noi non possiamo non tenerne in considerazione, quindi pure per questo stiamo preparandoci a varare nel mese di dicembre un nuovo regolamento dell'assistenza. Un nuovo regolamento dell'assistenza che andrà nella direzione dell'aiuto ai colleghi in ambito professionale, in ambito familiare, in ambito della salute. Presidente, scopriamo che simpaticamente anche voi siete creditori dello Stato. Sì, siamo creditori dello Stato in relazione al gratuito patrocinio, quindi a quelle risorse che lo Stato dovrebbe erogare in favore dei colleghi che svolgono prestazioni in favore dei soggetti meno abbienti, quindi una vera e propria funzione sociale. Il debito non lo conosce nessuno, perché per quanto riguarda le corti d'appello che io ho interpellato personalmente non mi hanno saputo dare risposta, e così come poi i tribunali a cui molte corti d'appello mi avevano rinviato non mi hanno dato risposta precisa. La mia sensazione è che non si abbia molta chiara qual è la situazione. Comunque anche su questo noi ci siamo attivati cercando di intervenire offrendo allo Stato una soluzione, che è quella della cartolarizzazione sostanzialmente di questi crediti. In primo momento avevamo pensato proprio alla cartolarizzazione, ma in secondo momento mi sembra la soluzione più normale potrebbe essere questa. Siccome noi siamo dei sostituti d'imposta, perché nel momento in cui eroghiamo le pensioni ai colleghi che appunto devono ricevere il trattamento, tratteniamo il 30% da poi dare allo Stato. La nostra idea era questa: una parte di questi soldi, parliamo di circa 140 milioni di euro, potrebbe essere usata insomma a compensazione, subito per mettere poi in giro, per dare la possibilità soprattutto ai più deboli di dare loro subito delle risorse e per fare anche girare un po' l'economia. Ministro Orlando cosa dice? Ci penserà? Ma il ministro Orlando mi ha assicurato il suo massimo impegno. Mi rendo conto che non dipenda solo dal Ministero della Giustizia, ma dipende dal Ministero dell'Economia e Finanza, ma se i ministeri iniziassero anche a ragionare non più in termini di comparti stagno, io penso che potremmo avere tante risposte in tempi rapidi e trovare tante soluzioni che tutta l'avvocatura, ma non solo l'avvocatura, si aspetta. A chi ci scrive al 349-238-6666, ma non è che il presidente della Cassa Forense si sta lamentando di quanto guadagnano gli avvocati? Stava facendo il punto su tutta una categoria di avvocati che in realtà guadagna veramente poco. Sono i nuovi entranti nella professione, quelli che... hanno fatto pratica da poco, che magari provano a mettersi in proprio, e non crediate che guadagnino tutti questi soldi, eh. Magari hanno colleghi più anziani o studi con colleghi più anziani che fanno da tappo sopra e gli impediscono di entrare nel mercato. Non è una situazione così facile per tutti. Dunque, torniamo alla Banca Centrale Europea, però dal lato dei mercati, ossia facciamo il punto sulle borse. Milano che chiude sui minimi, -2,7%, -2,5% il FTSE All Share. Un punto e mezzo di calo per Parigi, un 1,21 per Francoforte. E ci vuole un dollaro 24,33 per comprare un euro, quindi in rialzo. Qualcuno dice i mercati stanno mettendo in dubbio la credibilità di Draghi. La mia impressione, Eleonora Micheli, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buonasera, è che semplicemente si cercasse un'occasione per vendere qualcosa, no? Sì, può darsi, comunque c'era anche chi effettivamente aveva scommesso che oggi Draghi potesse sorprendere i mercati con un'azione in anticipo, invece di fatto non è sceso in campo con misure straordinarie e quindi c'è stato il là per le vendite, vedremo poi nei prossimi giorni che cosa succederà. Questo per quanto riguarda il quadro generale che come sempre in questi casi punisce le banche, Monte dei Paschi giù del 4,5%, Unicredit del 4,08%, Mediobanca di quasi 4 punti percentuali, Popolare Emilia Romagna del 3,7%, Banco Popolare del 3,6%, Ubibanca del 3,6%, in questo quadro però c'è anche un titolo industriale che va molto male, è CNH giù di quasi 5 punti percentuali, Eleonora brevissima che poi andiamo in pausa e ci ritroviamo dopo. Ma guarda, le banche sì sono andate molto male, ironia della sorte è proprio oggi che lo spread sta a 126 punti e peraltro il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni è scivolato al di sotto della soglia del 2% e si sa che le banche invece sono molto sensibili all'andamento dei BTP visto che hanno le casse piene di titoli di Stato. Questo per quanto riguarda le banche, dunque su CNH e su altri titoli come per esempio Eni, meno 3,5%, World Duty Free, meno 3,3%, Mediaset, meno 3,25%, ma anche titoli positivi come Telecom Italia che guadagna 1,5%, unico positivo sul listino principale. Torniamo subito dopo il GR. A tra un attimo. Focus Economia. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms, ve la riassumo. Il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, dopo aver tagliato le stime, annunciato il taglio delle stime di inflazione, il taglio delle stime di crescita, ha però detto che non scatterà adesso l'acquisto di titoli di Stato sul mercato, che l'inflazione può scendere ancora e la BCE è pronta ad agire. Ha detto che non serve un voto unanime della Banca Centrale Europea per l'acquisto appunto dei titoli di Stato e che questo acquisto è chiaramente nel mandato della BCE. Però appunto qualcuno forse si aspettava che già oggi sarebbe arrivato l'annuncio, ebbene questo annuncio non è arrivato. Oppure più semplicemente i mercati puntavano a vendere, se come ci diceva poco fa Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, su 37 economisti interpellati da Reuters, 36 si sono detti convinti che oggi la BCE non avrebbe agito. Fatto sta, comunque, i mercati sono scesi, meno 2,7% il FTSE MIB, meno 2,5% il FTSE All Share, giù Parigi dell'1,5%, Francoforte dell'1,21%, un unico titolo positivo sul listino principale, Telecom Italia. Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, di nuovo buonasera, come mai? Sì, più 1,5%, peraltro è da qualche seduta che Telecom è ben comprata, questo perché ci si attende imminenti novità sul fronte brasiliano dove è in atto un consolidamento nel settore delle telecomunicazioni. Nei giorni scorsi però anche l'amministratore delegato Marco Patuano e il presidente Giuseppe Recchi hanno rassicurato che ovviamente stanno studiando la situazione, ma come ha detto Patuano non vogliamo fare il passo più lungo della gamba, e questo è stato interpretato dal mercato come dire che Team Brasil, la controllata di Telecom Italia, probabilmente non ha nessuna intenzione di fare un aumento di capitale, di svenarsi per fare un'integrazione con OI, e a questo punto chissà, potrebbe essere la stessa OI che invece alla fine comprerà Team Brasil. Evidentemente il mercato inizia a pensare così. Tra i titoli non particolarmente negativi direi, e quindi sempre sul listino principale, sul FTSE MIB, tra i migliori ci sono Ferragamo che cede lo 0,10% e A2A lo 0,12%. Sì, per quanto riguarda A2A, diciamo che ieri è stato comunicato che il Comune di Brescia e il Comune di Milano hanno collocato lo 0,5, lo 0,25% a testa di azioni della società. Nei giorni precedenti c'era un po' la spada di Damocle che si sapeva che dovesse essere effettuata questa operazione, adesso appunto è già stata effettuata e quindi i titoli hanno rialzato la testa. Per quanto riguarda Ferragamo, questa mattina era addirittura arrivata a guadagnare oltre il 3%, proprio mentre l'euro stava crollando, è arrivato, ricordiamo, a 1,2299 sul dollaro. E ovviamente un euro debole finisce per incoraggiare le esportazioni, in primis quelle del settore della moda. Questo per quanto riguarda i titoli tra i migliori. Tra questi, tra l'altro, c'è anche Saipem, un meno 0,75%. Nei giorni scorsi però ha scontato parecchio, tanto il calo del prezzo del greggio quanto questo stop, almeno apparente, arrivato da Putin su South Stream. Ci sono motivi particolari per i quali CNH perde 5 punti percentuali ed è il titolo peggiore sul listino principale, Eleonora? Sì, ovviamente oggi, proprio oggi, la Banca Centrale Europea ha rivisto al ribasso le stime per l'economia europea fino al 2016 e quindi la stessa CNH, che è un titolo industriale, vende macchine agricole e le prospettive per il settore sono abbastanza grigie, vende inoltre veicoli industriali, ovviamente è andata giù. Semmai su Saipem va detto che proprio oggi Jean-Claude Juncker ha detto che probabilmente South Stream non è tramontato, il gasdotto, il progetto del gasdotto su cui sta lavorando la società, come invece aveva annunciato Putin nei giorni scorsi, ma forse ci potrebbe essere un recupero, tant'è che stamattina Saipem aveva tentato proprio un rimbalzo. E quindi questo per quanto riguarda Saipem. Giù ancora Eni in realtà del 3,5%, World Duty Free del 3,3%, Mediaset del 3,25%, Exor del 3,14%, Finmeccanica del 3,10%, Campari del 3,08%, Mediolanum del 3,04%, Buzzi Unicem del 3,03%, Fiat Chrysler del 2,9%, giù anche Unipolsai del 2,8%, c'è Gtech che cede il 2,7%, Eleonora. Sì, in questo caso diciamo ha chiuso in linea con il listino, questa mattina andava peggio del listino. Il Messaggero di quest'oggi ha riferito l'indiscrezione in base alla quale il prossimo anno il governo effettuerà un'asta per fare una gara per la concessione sul lotto, lotto che invece da circa 20 anni gestisce la stessa Gtech. Il governo punta a realizzare 500 milioni da quest'asta, inoltre abbasserà anche il compenso per i concessionari. Ovviamente Gtech su questa ipotesi, su questa indiscrezione è andata male. Io ti ringrazio, grazie di Eleonora Micheli e come sempre ai colleghi di Radio Cori il Sole 24 Ore. Buonasera Eleonora, ci vogliono 1,24 dollari e 21 per comprare un euro, questo è il quadro, quando ieri naturalmente i livelli erano sempre sulle attese della BCE, insomma l'euro era risultato in calo. Accennava Eleonora Micheli alla vicenda di South Stream, il tema del gas è un tema sul quale torneremo tra un attimo per parlare soprattutto di un investimento importante in Italia che rischia di rimanere bloccato proprio da questo punto di vista, anche se il governo punta a farlo partire, che è l'altro gasdotto, il TAP, quello che dovrebbe arrivare in Puglia passando da Grecia ed Albania per portare il gas a zero. Però adesso invece ci occupiamo di un provvedimento approvato oggi in via definitiva dal Senato ed è la proposta di legge sul rientro dei capitali. Però lo facciamo subito dopo il traffico. Focus Economia. Il provvedimento è passato con 119 sì, 61 no e 12 astenuti alla proposta di legge sul rientro dei capitali che introduce tra l'altro anche il reato di autoriciclaggio. Il provvedimento è dunque legge. Dice il ministro dell'economia Piercarlo Padoan che non è un condono e in effetti Alessandro Galimberti al Sole 24 Ore no, non è un condono. Buonasera Simona, a te e a tutti gli ascoltatori. No, nonostante ci sia un dibattito politico molto acceso, c'è stato ieri sera, ieri notte in Commissione Finanze e Giustizia al Senato e oggi ancora in aula tutta la mattina e pomeriggio, ci sono fazioni, c'è chi sostiene questo provvedimento, la maggioranza nemmeno tutta, c'è chi lo considera troppo permissivo, un ennesimo condono, e chi lo considera troppo punitivo. Il ministro dice una cosa corretta: non è un condono perché, a differenza degli scudi del passato decennio, i tre scudi sotto il governo Berlusconi nel 2001-2009, questa volta bisogna fare una dichiarazione completa, documentale, documentata, e soprattutto bisogna svelarsi come contribuente con nome e cognome. E poi si paga tutto, cioè non si pagano le sanzioni ma si paga tutto. No, in realtà si paga tutto, compreso le sanzioni. Il grosso tema è che per i capitali non ancora prescritti fiscalmente, cioè quelli che si dicono sotto accertamento, si paga l'IRPEF per intero. Quindi, siccome si parla comunque di importi molto grossi, vuol dire che sul capitale che sta in 5 anni, chi ha depositato il capitale negli ultimi 5 anni, su quelli pagherà il 43% di IRPEF più il 2% di tasse locali. E se è depositato in paradisi fiscali, come per esempio è a tutt'oggi ancora la Svizzera, la prescrizione è decennale. Quindi vuol dire aver versato 1 milione, noi abbiamo fatto più volte dei calcoli in questi mesi al Sole 24 Ore, aver depositato 1 milione in periodo di non ancora prescritto fiscalmente, tra tasse, sanzioni che pure sono fortemente scontate e gli interessi, su 1 milione si arriva a pagare circa 850.000 euro di tasse, che sanzioni e interessi. Cifra percentuale che scende moltissimo se il capitale è prescritto fiscalmente, cioè se non è più accertabile. No, ti fermo Alessandro, perché già qua parte qualcuno con i ragionamenti politici via SMS. È certo, caro Spezia, non è un condono perché l'ha fatto la sinistra, dite con ironia, ma una roba di questo genere, l'avete sentito da Alessandro Galimberti, evidentemente non è un condono, no? Non è un condono, anche perché il condono è forfettario, si pagava il 5%, il 7% nel 2009, oggi si arriva a pagare l'85%. Ma come pensa il governo che questi capitali rientrino, viste queste condizioni? Perché devono rientrare, perché stanno succedendo cose al di fuori dall'Italia di cui il governo nostro, né di destra né di sinistra, non hanno alcun merito, e cioè stanno andando a esecuzione tutte le trattative OCSE e in sostanza dei paesi a democrazia, economia, finanza avanzata, che impongono lo scambio automatico di informazioni fiscali. Noi parliamo di Svizzera per un semplice motivo: dei 230 miliardi che stanno all'estero, stima molto molto prudente di Banca d'Italia, in realtà sarebbero 3 o 4 volte tanto secondo fonti ufficiose ma non ufficiali, di questi 230 miliardi 200 stanno in Svizzera o comunque sono transitati dalla Svizzera. Quindi la sostanza è questa, immagino che la ratio della cosa sia questa: il governo dice in questo modo tu fai rientrare i capitali, io non mi rompo le scatole con rogatorie, procedimenti, esatto. Non andiamo in giudizio, non ti porto davanti a un tribunale fiscale o quello che è, e risolviamo le questioni tra se noi. Se non lo fai oggi a queste condizioni, che non sono condonistiche ma non sono ancora quelle normali, perché tu ricordavi, uno domani verrebbe punito per reato di autoriciclaggio oltre all'evasione fiscale, e sono dai 4 agli 8 anni di carcere. Se non lo fai oggi a queste condizioni, con sanzioni ancora limitate, con degli sconti sulle sanzioni e sugli interessi, nel 2018 andrà in esecuzione lo scambio automatico di informazioni fiscali. Vorrà dire che la Svizzera, e parlo sempre di Svizzera per il motivo di cui accennavo prima, dovrà inviare automaticamente i dati di ogni singolo risparmiatore all'Agenzia Fiscale Italiana. Quindi se uno oggi pensa di fuggire, domani non lo potrà più fare. Ma non solo: quando nel 2018 entreranno in vigore questi patti, saranno retroattivi di almeno 3 anni, quindi verrà fotografata la situazione al 2015, al 2014, e se uno oggi scappa dalla Svizzera per andare, come sta succedendo nei paesi del Golfo, ci sarà traccia che vede capitali svizzeri che è andato nei paesi del Golfo. Vorrà dire che il fisco avrà titolo per fargli tutta una serie di azioni esecutive. Un piccolo inciso tecnico ma che è importante: nei reati fiscali esiste la confisca per equivalente, quindi non è che la magistratura sequestra quella partita di giro, quella che tu hai messo in Svizzera o a Dubai. Ti può confiscare per equivalente la casa, la barca, la villa, quello che hai in Italia, i gioielli. Quindi il tema è molto delicato. Certo. Se oggi questa è l'ultima finestra, e ragionevolmente, io non sono qui a fare il promo per nessuno, né per il governo di centro-destra e di sinistra, semmai per suggerire un atteggiamento prudente al contribuente che finora è evaso. È l'ultima possibilità di entrare a patti, questa volta pieni e reali con il fisco. Io direi, converrebbe farlo, poi Poi ognuno decida. Grazie ad Alessandro Galimberti del Sole 24 Ore. Come si diceva, parliamo tra poco adesso di gas e di investimenti a rischio blocco. Ho parlato tantissimo di South Stream in questi giorni, c'è un altro progetto di un gasdotto, ve lo accennavamo poco fa, che dovrebbe portare il gas a zero fino in Europa, non a zero, a zero come dal luogo, dall'Azerbaigian. Passando dalla Grecia, dall'Albania, per poi arrivare in Puglia. Ieri conferenza dei servizi al Ministero dello Sviluppo Economico, il gasdotto TAP. Nessun accordo tra lo Stato e la Regione, perché la Regione Puglia l'arrivo di questo gasdotto sulle sue coste non lo vuole. Giampaolo Russo è il country manager di TAP, il Trans Adriatic Pipeline. Buonasera e benvenuto, Russo. Buonasera a tutti. C'è ancora qualche possibilità, secondo lei, vista la conferenza dei servizi di ieri, che i lavori partano entro il 2015? Secondo noi, se la conferenza dei servizi ha di fatto conclamato una decisione che la Regione Puglia politicamente aveva già dichiarato nel passato, e sappiamo che esiste una procedura che prevede la normativa vigente, tra l'altro rivista da poco anche dello Sblocca Italia, che prevede di fatto uno sblocco anche qualora la Regione esprima una mancata intesa. Quindi secondo noi siamo assolutamente in linea e credo che il governo si conforterà rapidamente avviando questa procedura. Cioè dove la regione, dove l'ente locale non dà il suo assenso, interviene il governo, dice questa è un'opera strategica, si fa e basta, questa è la sostanza. È ovviamente giustamente più rispettoso, perché la regione di fronte alla mancata intesa è chiamata in un comitato paritetico a proporre un'alternativa, se ce l'ha. Mi pare dai commenti che l'assessore all'ambiente regionale ha fatto mezzo stampa, la regione tra l'altro in questo momento non ha un'alternativa, quindi qualora avesse un'alternativa che il governo ritiene accettabile la si percorre, altrimenti se non c'è un accordo in questo comitato il Consiglio dei Ministri riunito con anche la partecipazione del Presidente della Regione può decidere a maggioranza di portare avanti comunque il progetto. Da quanto conclamata in un decreto della Presidenza della Repubblica. Da quanto va avanti la vicenda del TAP? Da quanto si tenta di raggiungere una? Da diversi anni, diciamo, formalmente inizierei nel 2011, anche se il progetto ha una vita in Puglia un po' più antica, insomma, ma noi abbiamo iniziato la componente di natura ambientale nel 2011. Ma guardi, la questione dei tempi è una questione, devo dire, tendenzialmente assente nella sensibilità della politica italiana, della politica e delle amministrazioni. In questo caso devo dire noi stiamo in questo momento beneficiando sicuramente di una svolta, di una nuova energia impressa dal governo Renzi, dopo aver beneficiato di un supporto molto evidente dai governi Monti, dal governo Letta sul nostro progetto. Questo per quanto riguarda il vostro progetto, un gasdotto di 871 chilometri, mi dica se sbaglio qualcosa, attraversa appunto la Grecia, l'Albania, e dovrebbe approdare appunto sulla costa meridionale della Puglia, capacità di trasporto di 10 miliardi di metri cubi l'anno. In fase iniziale noi siamo dimensionati già per ospitare 20 miliardi, questo è importante dirlo, perché il contributo che TAP potrà portare è fino a 20 miliardi di metri cubi. Nasciamo con una capacità di 10 miliardi, ma il progetto è già costruito per ospitare 20 miliardi. Ultima questione, lei ci parlava appunto dei blocchi che esistono in questo paese, la scarsa sensibilità per i tempi, tra l'altro ci sono dei dati dell'Istituto per la Competitività presentati la settimana scorsa che non sono niente male, perché le risorse di provenienza nazionale ed estera in pericolo sono 26,4 miliardi di capitali a rischio e 6,8 miliardi bloccati, e ci dice a quanto ammonta l'investimento di TAP in Puglia? In realtà lei non può segmentarlo, perché infatti quando lei ci dica se sbaglio sui chilometri di fatto TAP esiste in quanto parte di un progetto che nasce in Azerbaigian ed è un tutto unico, perché nasce dall'estrazione fino alla confine. È certo, perché mica ti fermi in Albania, no? Questo lo capisco. No, perché diciamo, nella valutazione di un progetto da 45 miliardi di dollari, il progetto, se salta l'Italia, salta tutto, diciamo, questo è ovviamente, per questo è un'importante cartina di tornasole del nuovo sforzo per rendere il nostro paese attrattivo. Cioè, noi siamo il primo progetto che in questo momento rientra nel campo applicativo dello Sblocca Italia, e quindi un'importante anche prova di credibilità, tenendo conto che TAP è interamente promosso da privati, da soci comunque esteri, non italiani. Brevissimamente, la contestazione della Regione Puglia riguarda anche un punto specifico della sua costa, dove oggettivamente ci sono delle spiagge bellissime, la zona di San Foca. C'è la possibilità che il gasdotto approdi in un altro punto della costa? In 10 secondi. Ma secondo noi, dal punto di vista, allora, questo è un giudizio che ha reso il Ministero dell'Ambiente, è il primo caso che lei trova di un decreto VIA che ha effettuato 50 pagine di analisi delle alternative, e il Ministero dell'Ambiente ha di fatto suggellato che dal punto di vista tecnico e ambientale e paesaggistico il migliore approdo è quello di San Foca, perché altri approdi che hanno spiagge meno belle hanno una serie di vincoli a mare, in particolare di habitat protetti, che è la famosa Posidonia, che conosco anche molti naviganti, perché in molte aree in Italia non si possono poggiare le ancore dove c'è la Posidonia, perché è un habitat protetto. Quindi questo è il tema. Difatti la nostra preoccupazione, mi scusi se vado oltre 10 secondi, è che non si è mai voluta esaminare la compatibilità fra turismo e gasdotti, che l'Italia già conosce, perché lei ha 8 località bandiera blu sulla costa adriatica che ospitano gasdotti in alcuni casi da decenni. Grazie. E quando si dice perché non si coinvolgono gli amministratori di queste località per capire se come amministratori, residenti, operatori economici o turisti hanno sofferto l'interferenza gasdotto turismo. Allora, la ringrazio, Russo, la ringrazio perché è stato chiarissimo. Siamo veramente in chiusura. Grazie a Giampaolo Russo, country manager di TAP, il Trans Adriatic Pipeline. Grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Valeria Bernardi in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci sentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24, la passione si sente.